non so. Beh, vabbè. Comunque 5 ottavi, forse qualcosa la rosica. Certo, stiamo parlando di differenze sempre piccole. Poi ti ho detto, dipende dalla tasca, io ho deciso anche di tasca, non col cervello ma con la tasca, e quindi detto, mi sono messo un limite, ho detto, non voglio andare oltre, piuttosto rinuncio. Me la uso in macchina, l'antenna veicolare, prima uscivo in macchina modulare, capito? Prima di avere l'antenna sul tetto. Aspetta, che sto guardando un messaggio. No, vabbè, niente di eccezionale. Cos'è? Dago Spia, Bruno e Maloria al concerto di Vasco Rossi. Vabbè, ciao, arrivederci. Ehi, tutti questi messaggini che arrivano. Cioè ti volevo dire, ho notato che Telegram comprime, o meglio peggiora drammaticamente le foto che io mando. Cioè io le vedo, le scatto, le vedo in un modo, dalla galleria, poi la mando su Telegram, la mando, che ne so, a te, la guardo, guardo la foto che ti ho mandato ed è tutta righine, rigone, cose di compressione. Cioè Telegram comprime le foto molto di più di WhatsApp. Con WhatsApp non le vedi così, diciamo, sgranate, così peggiorate le foto. Con Telegram sì. Vabbè, sicuramente adotteranno un certo tipo di comprensione, dico compressione, e non comprensione. No, vabbè, io WhatsApp l'ho disinstallato, questo è più affidabile, dai. È molto più riservato sotto certi punti di vista. Guarda, io mi ricordo che nella serie TV, vabbè, mi era stato già segnalato come programma, però non lo usa nessuno, e non c'è il tanto. Nella serie TV Io Robot, quello di quelli super hackeroni, per parlare tra di loro usavano questo Signal, che praticamente è come un WhatsApp, come un Telegram, però molto, ma molto più sicuro, con tanto di distruzione dopo pochi secondi che tu prefissi del messaggio scritto, del vocale, del video, delle foto, molto più blindato come programma. Ne ho sentito parlare, però non mi sono mai informato. No, vabbè, Telegram fa parte di Spassiba, quindi è tutta una cabarrucchia. Telegram è filo putiniano. No, Telegram è stato... il patron di Telegram è un russo. Un russo, dai, sì. No, non lo sapevo. Io credo che quelli russi fossero quelle WeChat, proprio chat, sì, tipo WhatsApp, però russe, proprio credo addirittura che usino più che altro all'interno del territorio russo, come una cosa locale, come poteva essere la chat C6, ti parlo degli anni 2000. Lei mi ha conosciuta la chat C6, era caruccia, carina, roba di hackeramenti anche lì, mamma mia, un giorno uno mi ha mandato in chiaro le mie password, i miei vari pseudonimi, nomi utente e password, non so come abbia fatto. A dirti la verità, non ho mai sentito una cosa del genere, questa C6, roba del genere. Vabbè, non sono mai stato un grande smanettone a certi livelli, ho sempre volato un po' basso, dai. No, vabbè, ti ripeto, su Telegram seguo un sacco di canali informativi, un po' di tutte le salse, dai. E niente, e poi anche più discreto, più non è così come si dice, così a umma come cosa, come WhatsApp, che fa parte della piattaforma di Facebook, e quindi meglio così, dai. Dobbiamo scegliere solo da chi essere spiati, se da destra o da sinistra, se da est o da ovest. Corea Nord, vabbè, implicita, no? Nord. Mi pare c'è la sede dell'NSA in Inghilterra. Ciuccio. Vabbè. Già non ho niente di cui preoccuparmi. Figurati. No, ci sono un sacco di canali interessanti che pubblicano notizie che non passano nei media ufficiali, dai. È giusto per avere dei metri di paragone. Sì, perché guarda, YouTube sta diventando veramente una specie di, non so definirlo, commenti scomodi eliminati, video scomodi eliminati, anche con metodi sommari, cioè senza darti troppe spiegazioni. Un certo, chi era? Non mi viene il nome, aveva fatto anche ricorso, no? Tramite sempre i cosi di YouTube, no? Non ricorso tramite il tribunale, loro hanno deciso che andava tutto bene così, che il messaggio era stato cancellato e andava bene così, proprio un piccolo regime telematico, ecco. Sì, già hanno chiuso uno o due di canali, oh, yeah. Ha fatto sparire un sacco di contenuti. Cosa ti volevo dire? Adesso mi sfugge. Sì, vabbè, più blu mi pare che, non so se l'avevano chiuso, poi aperto, poi vabbè. Ma altri canali anche per cose veramente frivole sotto un certo punto di vista. Vabbè, la morsa è quella e ciccia. Sì, naturalmente poi stavo parlando con un CBX, che naturalmente è una cosa che mi ha detto così, in privato, per un misero commento, nemmeno tanto un misero commento, gli hanno contestato dicendo che non andava bene, così, colà, è uno schifo, non puoi più commentare niente. Puoi solo lecchinare, se lecchini, anzi ti danno anche agevolazioni, se più lecchini, capito, su certe piattaforme social, se invece critichi, allora questi account spariscono, vengono chiusi, non si sa da chi, da come, se dagli algoritmi, se da persone che lavorano lì, non sono d'accordo. C'è un po' di questo, c'è un po' di quello, dai. No, infatti, magari dai, anche se ne ho un po' le tasche piene, sono sovraesposto a troppe informazioni, ogni tanto bisogna staccare, sennò guai. Certe volte, sì, è vero quello, certe volte mi faccio un ragionamento, no? Io sento, sì, ci sono le fonti ufficiali, no? Che sempre uno dovrebbe prendere per oro colato, no? Allora mi faccio questo di cosa, no? Però se uno deve diffidare delle fonti ufficiali per un motivo o l'altro, no? E le fonti ufficiali sono la maggioranza, perché dovrei fidarmi di un perfetto sconosciuto magari che su tale sito, su tale cosa dice no, non è andata così, è andata colà. Cioè, se non mi fido dell'uno, perché dovrei fidarmi dell'altro? Cioè, uno si dovrebbe fidare solo vedendo e toccando con mano, cosa che naturalmente non si può fare nella realtà. Ecco, vabbè, poi ho ragionevole dubbio, ognuno poi sa, si fa la propria idea personale, poi giustamente le cose possono scricchiolare sia da una parte che dall'altra, per carità, che poi alla fine più o meno quando a veicolare certe informazioni sono sempre i soliti nomi grossi, già quella no, una grossa fonte di dubbio. Quello sì, avanti il brecco. Buonasera, ma come se devi mettere una portante a qualcuno, ho detto, poi stavate a parlare, ho detto dai, non fa, dai. Ah, spero bene, non ho capito bene che sia un po' cupo. Aspetta, mi leggo il volume. Ho detto, avevo voglia di mettere una portante a qualcuno oggi, però vi siete simpatici, per cui non fa. Metti la portante, cosa giù, buona e giusta. E vedi un po' il profeta come di segnale, così, tanto per saperlo. Ehi, ciao Roberto, buonasera. Abbassa appena appena il volume del microfono, che sei molto rimbombante, sei un beaccio. E poi per il resto va benissimo, dai. Guarda adesso, ho preso l'MC50, anzi pensavo fosse troppo basso. No, no, già andava adesso, dai, meglio, meglio. E allora che ci dice da quelle parti? Gianni forse ha fatto qualche miglioramento, arriva a 9,25 da me. Ma quale stai usando Gianni, 4 watt o 8 watt? No, il Jopix con 8 watt sto utilizzando. Sto testando la Venom mezz'onda. Questo è giusto per essere chiari. Ha avuto un miglioramento di quasi 5 dB, perché prima eri quasi 9,20, adesso sei 9,20, quasi 9,25. Marco, tu sei più basso del solito invece. Sì, diciamo queste sono le... è la potenza base, col 3.900 e 3 watt utili. Queste sono quelle che io chiamo condizioni base, nudo e crudo. Quando dico nudo e crudo sono così. Quando mi senti più forte è perché ho 10 watt, 12, 15 di quelli altri apparati tipo CRT, President, eccetera. No, no, superi 9 più 30, modulati li superi, però normalmente il tuo segnale era 9 più 40, quasi, dai. Perché magari non erano 3 ma erano 4, 5, 6, 8, 10, eccetera. Bene, quindi un po' di differenza lì c'è, naturalmente siamo sempre a un chilometro di distanza Gianni, quindi è tutto molto aleatorio, però sicuramente da qualche, o in alto o in basso, non lo so, dipende anche dall'altitudine della persona che riceve, capito, se più alta di te, più passa di te, se a pari altezza, tante cose, vabbè sì, è un test così che stavamo facendo per... divorati dalla curiosità, capito Roberto? Ma Gianni, la moto ti sei venduto? Affermativo. Come mai? No, su fatto cambi modello? No, sono cambiate un po' di cose, dai, adesso le priorità sono altre, dai, non no. Abbiamo a malincuore deciso così e ciccia. C'è dell'altro, dai, in ballo, quindi diamo più importanza all'altro. Poi anche sotto l'aspetto economico ormai è diventato più che un lusso, dai. Non lo so, ormai poi con quello che costano assicurazioni, non dico il mollo, non lo so quanto costi per la moto, non credo molto, però assicurazioni e carburante, cavolo, stanno salendo, è una cosa esagerata. Dai. Un po' a malincuore, però non potevo fare altrimenti. Già l'ho dato a una persona seria, un amico, una persona in gamba, dai. Ma l'importante è che sia qualcuno affidabile che se ne goda, che non la maltratti, dai. È come quando c'è una cosa affettiva, ti dispiace vederla a qualcuno, la lascia buttata, me ne freghita dopo tutto l'amore e la cura che ci hai messo tu. Ok, comunque saluto di nuovo a tutti e due che sono entrato, come si dice, a gamba tesa. Ciao Gianni e ciao Marco. C'è qualche d'un altro o siete solo voi due? No, solo noi. È langue oggi. Che poteva andare fuori, c'era gente nel pomeriggio, poi niente, qualcuno diciamo nel pomeriggio, poi niente, poi qualcosina metà serata, adesso di nuovo niente. Cazzo, stavo guardando l'orario, le 21.09, mamma mia, devo anche fare roba qui, tra poco non mancherò di... No, sono sceso a Fertilia, c'è cioè quella street food. Cacca, ho visto il coso dell'argentino, lo stand argentino della carne, c'avevano un barbecue, chiamavano barbecue, che era un cassone di camion come dimensione, ma queste fettine, deve essere lì, le mangiano così, che prendono tutto l'animale mezzo intero, tipo come noi facciamo il porcetto, loro fanno le fette così di questa carne, buh. Sembrava che stessero tagliando a fette un animale intero, ma non fettine, fette parliamo di 10 cm di altezza, non avevo mai visto una cosa del genere. Sì, un po' come come l'americana, ma poi spero fossero morbide come il burro, no? Come la fiorentina. Guarda, io carne quasi niente ne mangio, proprio zero, quasi zero assoluto, dai, mi, salsiccione, qualche fettina sottile sottile, ieri c'era una rottita per dire cose leggere leggere, però la carne quando è grossa, grassa, questa era molto accattivante, il profumo bello, perché c'erano tante varietà, poi sopra ci hanno buttato dei peperoni interi, cioè fatta bene, veramente è fatta bene, tipo quando facciamo noi il porcetto nel nuorese come genere di cura nella cottura. Ma tu vedevi cosa c'era di carne? Poi vabbè c'erano tutte le altre cose, specialità cubane, di Palermo, siciliane, e che cavolo c'era poi, cosa? Almeno 6 o 7 nazionalità diverse. Per chi era interessato, solo che ogni cosa era una trasfusione di sangue, ogni cosa andava a assaggiare. Ah sì? Un bel caro, cioè due cagatine le paghi 5 euro, cioè una birra piccola, un bicchiere di birra di quella 4 euro, cioè io pensavo fossero a prezzi ragionevoli, per dire fai 2,50 euro un bicchiere di birra, la minima 4 euro. Ma bicchiere da 0,20? Bicchiere in plastica normale, quanto è 0,20? Eh sì, quelli piccoli, poi c'è 0,30, quello più grande. Quello normale, adesso non so la quantità, il classico bicchiere in plastica quando bevi un bicchiere d'acqua, una cosa del genere. 0,20, cazzo, una 0,24 euro, cazzo lo vai in rapina. E te lo sto dicendo, poi c'era stato con mia figlia, con il fidanzato, il coso, come si chiama, quello palermitano, le pietanze siciliane, il cannolo siciliano e queste specie tipo amaretti sardi, però loro lo fanno col pistacchio, ma l'ho assaggiato un pezzettino, una pallina 2 euro, una pallina tipo, c'è cioè, presente un supplì piccolino, una cosa così 2 euro, ha detto cazzo. Ne approfittano d'estate, dai. C'è gente che sta chiamando, avanti chi chiama? Chi è questo? Avanti? Forse qualche camionista arriva a 7-8 qua, forse stanno parlando tra di loro. Ok, di nuovo a te Marco. Oggi è calmo, oggi è calma piazza, rispetto. Ieri era un delirio. Ma io stamattina ho acceso, no, non stamattina, scusa, ieri mattina, stamattina non c'ero, ho acceso di mattina, prima mattina, e c'erano questi radiamatori, non so se i nominativi erano fasulli o cosa, a 27.600, americani erano, non so se di lì in America si è permesso di lavorare su quelle frequenze lì. No, dubito, ma tanto lo fanno lo stesso come lo facciamo noi. Aglianate gli di tutta Europa in FM e anche Maddalterale ovviamente. A Segnaroni, c'è un tedesco da me 9 più 10 qua è una follia, sul Smith del 2009, 9 più 10 è una follia, io ho molta attenuazione. Tutti i canali, un canale sì, quasi tutti, pochi canali vuoti, ma adesso era tutto un delirio ieri, fino a tarda notte mi, io ho spento l'una e mezza ancora Segnaloni. E ieri ho visto che c'era un po' di propagazione, però ora sulle bande radioamatoriali ho visto non era, come si chiama, lo skip non era lungo, perché segnali che normalmente ascoltavi non li prendevi. E... cioè scusa, lo skip le stazioni vicine non le prendevi quelle più lontane ieri, parliamo di bande 20 metri e 40 metri, mentre 27 qua c'erano segnali, ho visto c'era un sacco di confusione, ho sentito anche non visto. Sì, anche sulla banda inglese CB, la banda FM CB, quella con l'uno finale, no? Segnali buoni. E mi chiedevo se quegli inglesi fossero lisci, tipo con 4 watt anche loro, oppure pompati. Magari erano pure liscimi, e la propagazione era... solo che era anche un casino, non ti dico ieri, lo squelcio dovevi alzare, se volevi il canale in monitor, il 10, dovevi metterlo quasi a manetta. Ciao, vai Gianni. Bene, sì, confermo, c'era abbastanza burotto. Poi si sentava qualche collegamento, però come nei contattavi uno partivano tutti gli altri, il caso Vicenza, Livorno, Pisa, Torino, chi viene a più ne metta. Ma quando è troppo larga la propagazione, poi sono uno sopra l'altro, è bella invece quando è più ristretta, per dire ascolti solo la Sicilia, solo la parte bassa dell'Italia, Calabria, Puglia, così, quando è troppo ampia si scavalca uno sopra l'altro. Sì, è vero. Bene, signore, io cedo il passo. Ah, già, una cosa non avevamo contato, conta che la boomerang è... vabbè, io la considero unidirezionale, però dove è puntato il radiale non dico che direttiva, una certa direzionalità un po' ce l'ha, una propensione verso la dove l'hai puntato radiale, il lobo è un po' deformato in quella direzione, e quindi è probabile che da Roberto, che tu fossi opposto con radiale rispetto a Roberto, non lo saprei. Guarda, io il radiale l'ho sempre puntato verso sud, il radialino, solo una volta l'ho portato verso nord, ma non è che abbia cambiato così chissà che cosa, Ma comunque da lui ha notato, io spero che Roberto ti abbia già sentito con gli 8 watt del coso, capito? Perché insomma un incremento c'è, per quanto sempre in vicinanza sia molto, vabbè, prendila per buona. Ma perché a te ti è abbassato il segnale, Marco? No, identico. Allora, quando sei 4 watt con l'una o l'altra antenna, che ho dato il controllo c'era prima io, no? O quando era, insomma. Identico, con gli 8 watt dell'altro apparato, identico, non ha cambiato un decibel, a dire un decibel. E quanto ti arriva lui da te? Vabbè, lui è 9,25 circa, dai. Però io ho controllato da attenuato, era con 4 watt Santiago 3, entrambe le antenne, con 8 watt, circa 4, entrambe le antenne, identico. Vabbè Mario, siete troppo vicini, io lo passo a lui o lui passa a me? Ah, io ribellivi a coso, uno con l'altro. Non so la giornata, che io sono un apparecchio che non mi faccio sentire. Attenzione, canale 10. Vabbè, passa Roberto. Però Gianni sotto si sente abbastanza. E poi basta vedere il segnale, mi attenuato. Mi solita. Guarda il segnale, 9,10 è salito questo segnale. Premi la portante, Roberto. Ecco, Roberto è 5. Gianni, non so se tu stia usando adesso gli 8 watt o i 4, comunque Roberto è 5, Gianni massimo 4 quando usa 8 watt. Io sto usando il Jopix con 8 watt, dai. Sì, proprio un Santiaghino di riferenza, cioè ecco perché passa Roberto, però poi sotto si sente Gianni di radio. Ok, però te che è un po', che io ho pochi watt. Anche io non arrivo a 10 watt, poi vabbè con i picchi arrivo molto di più, però questa radio c'è con 10 watt. Vediamo se qualcuno vuole entrare, qua sul canale 10, avanti che vuole entrare, se no riprendi tu Gianni. Controllino, grazie. Ciao, buonasera. E anche a te Carlo, ben risentito. Controllino. Chi è che ha detto controllino? Gianni, e poi non so chi ci sia, buonasera a tutti comunque. Ciao Carlo, cioè qualcuno ha detto, Gianni tu sai che ha detto un controllino? No, io. Chi, Tonino sì? Yes. 9 più 15 dalle mie parti, Tonino. Ok, grazie. Vi ascolto, dai, buon proseguo, ciao a tutti. Ciao Tonino, avanti Carlo, poi Gianni e poi, come si chiamava, Marco. Buonasera anche a Marco, io ho appena acceso, ho sentito Roberto avanti chi vuole entrare, quindi non so com'era la ruota, niente, io prima di rilassarmi un po', perché domani c'è un turno di mattina, e quindi niente. Avanti Gianni. Eia, ciao Carlo, buonasera, ben entrato. E niente, dai. Stiamo testando questa mezz'ora della Veno, adesso va bene, forse non ti ricordi bene gli ultimi rapporti, gli ultimi controlli, comunque se noti qualcosa di diverso faccelo sapere. Cambiato antenna già. Affermativo. Qua mi arrivi sempre, diciamo, con segnale fondo scala e forse, non lo so, anche il microfono hai cambiato. Questo è il Jopix con l'M95 della ZG. Ho trovato in antenna e niente. Già va bene, voce chiara, modulazione buona, insomma. Non va bene. bene così, Gianni. Ti ho sentito un po' incerto, dimmi, dimmi, cos'è che c'è che non va? Abbiamo amplificato perché sento rumori di fondo, ma di voci, di altre cose, questo. Sì, qua stanno parlando. Per quello ho detto forse, prima non mi ero accorto perché c'era più silenzio, capito, però va benissimo. Bolimeda, avanti a Roberto, vai. Capo, stavo guardando un video in questo pezzo di Ottana, di cavallette, in una campagna, in un podere, milioni e milioni di cavallette, qua che è peggio delle, di quando ci sono le invasioni delle vespe, una cosa mai vista. Te l'ho detto, le piaghe d'Egitto, prima la pestilenza, adesso le cavallette, chissà cos'altro. Oh, io saluto chi è entrato. Saluto le due persone che sono entrate, Carlo sempre fondo scala, io devo chiudere necessariamente perché devo anche forse buttare anche la spazzatura, ok, saluto tutti e poi mi devo occupare anche di altre cose familiari. Ci sentiamo, ciao Roberto, Gianni, Carlo, chi altro, chi avrà beccato, Torino mi pare. Insomma, ritenetevi tutti salutati, anche l'ascoltone, ok? Dai, buona serata, ciao a tutti, vai, Roberto. Ehi, ciao Marco, ben sentito, buon tutto, dai, buon proseguo, vai Gianni. Ehi, dai, ci aggiorniamo Marco. Salutone, buona serata, un saluto anche a Torino, che è entrato, che è in ascolto, e niente, dai, avanti Carlo. Marco, ce la risentiamo, ciao Torino, che non ti avevo salutato, ti ho sentito, ma poi non c'era stato, diciamo, il tempo di salutarti, no, per la novità di Gianni. Sì, Gianni, il microfono è diverso come, diciamo, come tono rispetto a quello che usavi prima, ma però tutto a posto, capito, tutto a posto. Sì, c'era un po' di traffico qua, eh. Adesso si è tutto normalizzato. Il microfono è diverso pure, Gianni? No, allora, sto facendo un test, l'antenna non è la mia, diciamo che sto facendo un po' di rodaggio, dai. Visto che avevo la possibilità, mi è stata chiesta la cortesia di fare un test, stamattina l'ho piazzata, e niente, oggi ci sto smanettando e sto cercando di capire, di avere un po' di feedback, dai, giusto per eventualmente orientarli nel prossimo acquisto. Comunque l'antenna non è mia, la sto solo provando. Ma cos'è, mini boomerang o boomerang normale? No, è una mezz'onda, è una Venom mezz'onda, quella con i tre radialini da 30 centimetri. Ah, quindi è diversa da come me la giravo. No, da me un peluzzino hai guadagnato rispetto a come eri prima, ma parlando di cose siamo troppo vicini, vabbè, dobbiamo vedere la lunga distanza. Comunque, leggero miglioramento c'è da parte mia. Carlo ha detto domani devi lavorare, presto entri. Domani mattina alle 5 devo essere lì. Ah, quindi devi alzare bello presto. Alle 4 meno un quarto mi suona la sveglia. Praticamente alle 4.25 sono giù in strada, 5 minuti sono a Predanieda, alle 5 meno 10 sono al lavoro. Come a Predanieda? Che c'è? Perché vai con qualcun altro? No, da casa mia scendere giù a Predanieda ci vogliono 5 minuti a quell'ora perché non ci sono semafori, capito? Poi una volta che sono giù, camminando a 100, arrivo in 20 minuti. Ma tu quando vai all'aeroporto, una domanda, tu giri alla rotatoria della strada 2 Mari o giri all'altra di Fertiglia? Allora, io dalla rotatoria non vado verso Alghero, ma vado verso, diciamo, la strada che ti porta a Porto Conte, Santa Maria La Palma, capito? Per cui passo davanti alle cantine dell'Ogu, davanti al bivio della zona industriale San Marco e poi passo davanti a quel rifornitore che adesso è Kuwait e poi giro subito a sinistra, capito? E arrivo subito all'aeroporto. Quindi quella è più breve, no? Perché io quando vado all'aeroporto sono sempre passato davanti alla sala mostre e poi giro a destra. Passando invece dal distributore è più breve la strada. Sono 2 chilometri di meno, però c'è chi preferisce quella che hai detto tu per questione di diciamo che è magari più larga la strada, eccetera. Ma io mi sono abituato con quella. Sai perché? Perché soprattutto d'estate quella là di Sella e Mosca, diciamo, è molto molto trafficata perché la gente va al mare da quella. Invece dove passo io, diciamo, ce ne va anche da lì gente al mare perché c'è Portoferro, la zona di Porto Conte, eccetera, no, da lì puoi andare alle grotte di Nettuno, tagliare per Fertilia, insomma, però meno traffico rispetto ad Alghero, capito? quindi tu giri a sinistra, vai sempre dritto dritto, non devi girare da nessuna parte, e ti trovi a destra all'aeroporto e a sinistra quei parcheggi serrati. Esatto, esatto. No, io parcheggio in terza corsia, proprio di fronte all'aerostazione, perché abbiamo i parcheggi dipendenti, non giù allo sterrazzo. No, dico, la strada è quella che va dritta dritta, non devi fare biforcazioni, vai sempre dritto una volta che hai girato a sinistra. Sì, sì, esatto. La stradina che ti porta davanti all'aeroporto. No, sono domanda, adesso passo da lì, perché ho fatto un discorso logico, ho detto quella è dritta dritta, non devi fare nessun giro, perché quello svincolo che poi dopo la strada di Mosca giri a destra, c'è il cartello, vabbè, ci faccio decine di volte, all'aeroporto sono andato, vanno di 50 volte, e se non conosci il posto uno ti può ingannare e ci sei dritto, mentre di là giri a sinistra, vai sempre dritto e te lo trovi senza errore, quella che dici tu. Sì, sì, praticamente passi dove c'è l'agriturismo Samandra, capito? Ne esci praticamente da lì, sei all'aeroporto. Scappa, oh, scusate il monopolio, ma dov'è che hanno rubato l'elemosina per quelli dove ci sono, per il, come si chiama, mettono le monete, all'aeroporto di Alghero o dove? Che ne hanno arrestato uno che ne ha permesso premio carcerato? All'aeroporto di Cagliari è successo quello, imbecille, perché poi gli aeroporti sono pieni di telecamere, c'è la videosorveglianza dappertutto e tutti i settori sono con sotto telecamere, capito? Quindi si vede che era anche uno sprovveduto. Ma forse ci voleva fare di nuovo riarrestare, ragazzi, se hai permesso premio e licenza a coso, premio, deve essere buona condotta e ti fai arrestare come un pollo, bubu, la gente è fuori di testa. Vai Gianni, a te. Sì, sì, sì, ok. Sì, a grandi linee, anche se sono da molte non ci passo, più o meno ho capito della strada di cui state parlando, dai. È una bella propagazione, avanti compagno. Sì, da Sella e Mosca e poi dopo, diciamo, anche l'Uruio giri subito a destra e vai dritto dritto, c'è il rettilineo che ti fa uscire di fronte all'aeroporto, oppure fai l'altra, quella che sto dicendo io, dove c'è quel rifornitore piccolino della Kuwait, e poi subito a sinistra vai dritto e esci all'aeroporto lo stesso. Ma a Torino l'hanno aperto la trassa, Carlo, a memoria? Sì, Torino c'era anche stamattina e lo sta facendo Volotea, è partito anche oltre stamattina, anche ieri o avantieri mi sa che l'ho visto schedulato. Ma è giornaliero o che cosa? Ciò che sia, tre volte la settimana, ma domani quando vado lo guardo, poi magari se ci risentiamo sarò più preciso, almeno è bisettimanale, però forse d'estate anche tre volte la settimana. Ah, quindi c'è anche in inverno Torino? Penso che Volotea lo lascia, capito? Perché comunque anche stamattina ho visto aveva 187 passeggeri, quindi praticamente era pieno il volo. Ma lo sapete cosa sto dicendo? Mio nipote, che è venuto ieri, però è venuto da Olbia, da Torino, ha fatto il trasferimento, gli ha dato la destinazione ed è a Torino e ha preso Olbia, via Olbia. Infatti gli ho detto, ma cazzo, guarda che c'è ad Alghero. Sì, sì, c'è ad Alghero, infatti sto guardando, aspetta. Ti dico anche, stamattina è partita alle 8:10. Ma è comodo, molte volte fanno delle tratte stranissime, non capisco, cioè delle città che molte volte rimane a bocca aperta, dico, ma perché non fai città più importanti, soprattutto come Torino che è una grande città, invece vai, ti trovi che ti fanno una destinazione, non lo so, di qualche paese strano. Sì, mi guarda, i numeri di stamattina erano 150, 102, che sono i primi due fiumicini linate, poi tutti gli altri sono praticamente Ryanair, Volotea Torino 187, poi Bergamo 186, poi Barcellona c'era 185 passeggeri, Bratislava 165, tutti così, Fiumicino delle 11:30 168, poi a scorrere 176, 187, 189, 187, tutti pieni, 190, e ormai sono così, il regime è quello di prima pandemia, se non anche di più. Scusa, sempre monopolio, ma quali sono le tratte giornaliere che ci sono tutti i giorni, oltre che Milano e Roma, Carlo? Ora c'è quello di Ryanair, Bergamo, che c'è tutti i giorni, e poi c'è Pisa, Bologna, che è quattro volte la settimana, capito? Anche quelli quelli si può dire sono quasi tutti i giorni, forse li aumentano pure quelli come frequenza, Sempre andata e ritorno, non è che partono oggi e poi c'è di domani. No, andata e ritorno, capito? Arriva e riparte, arriva pieno e riparte pieno. Vai Gianni, scusa l'insistenza. No problem, non c'è problema. L'ultima volta che ho preso l'aereo, non mi ha mai detto. Spera ancora i motori aerei. Fratelli Wright avevano appena approvato l'aereo con la NASA. Questi giorni comunque un sacco di persone stanno partendo, anche perché poi bisettimanali ci sono voli interessanti tipo il Bari, Palermo, capito? C'è Napoli, ce ne sono tante di città che si possono visitare, stai lì 3-4 giorni, ti vedi quelle città, qualche località lì vicino, tipo vai a Bari, ti puoi vedere i trulli, puoi andare a Lecce, capito? Ci stai pochi giorni e giri in un sacco di posti. No, Napoli è interessante perché non, a memoria mia non l'avevo mai sentito. Ecco, poi un altro che mi sono dimenticato, giornaliero, c'è anche Malpensa, che praticamente viene fatto Malpensa sia da Ryanair, ecco perché giornaliero, perché praticamente c'è il raddoppio, lo fa sia Ryanair che EasyJet, quindi ci sono due Milano-Malpensa fatti da due compagnie diverse. Capo, hanno tolto Genova, io non capisco perché hanno tolto Genova, io anni fa ci sono andato a Genova. So, purtroppo hanno optato su altre città, capito, e quello l'hanno tolto perché hanno pensato che magari c'erano i collegamenti con la nave, la gente Genova imbarca la macchina e quindi è per quello lì. Sì, sì, io capisco, però anche se vuoi andare a Milano, se vai a Roma, vai a Civitavecchia, la cosa, Porto Torres pure, però dico, mi fai Bari, senza niente togliere a Bari, ma chi è che ci va a Bari dalla Sardegna? A Genova ci sono un sacco di immigrati, poi ci sono le città vicine, c'è Savona, Imperia, per dire, c'è tante possibilità, ma a Bari, chi ci può andare a Bari? Guarda, da non dire, ma se tu vedi il volo di Bari è sempre pieno, ma sempre, e ci sta andando un sacco di gente, ma dall'anno scorso. Oh, c'era cognata di mio cugino, ha fatto l'addio al celibato a Bari, proprio per questo fatto, ha fatto a Bari, è bellissima la città, niente da dire, io non ci sono mai andato, per cui non posso dire niente, però dico, è entusiasta di questo posto. Guarda, l'anno scorso a me non mi hanno dato ferie d'estate, e allora mia moglie mi ha detto, te lo faccio il biglietto, te ne vai a Bari, ci state 4-5 giorni, una settimana, ed è andata lei e mia figlia, sono andati a Bari, si hanno preso un hotel al centro di Bari, uscivano tutte le sere e tutte le mattine si facevano una tratta diversa, sono andate a Lecce, c'è il treno, il collegamento, poi la stazione dal centro di Bari è vicina, ci arrivi a piedi mezz'ora, 20 minuti, altrimenti ti prendi gli autobus e ci arrivi così. Lecce è una delle più belle città italiane, tutta in stile barocco, capito, piena di chiese, di posti bellissimi, io ho visto le foto che mi ha mandato mia moglie, me le ha fatte vedere, insomma mia figlia, sono andati a vedere i trulli, sono andati in altre località, insomma, hanno mangiato di tutto e di più, orecchiette, c'erano mille trattorie, dice, costava pochissimo mangiare, praticamente in due andavano, prendevano piatti tipici, pagavano 30 euro con pure col dolce, la frutta, l'acqua, caffè, insomma ti davano tutto, seduto al tavolino, insomma, e ho visto che soprattutto d'estate è sempre pieno quel volo. No, non lo sapevo, che non Napoli è interessante perché è un paese, anche un paese, è una città dove vorrei andare volentieri, perché c'ho mia cugina acquisita, napoletana, lei vai a Napoli, oh, lei per lei Napoli è la più bella città del mondo, meglio di Roma, se la senti parlare, sicuramente è una bellissima città, però non sono mai andato, è un posto dove non ci sono mai andato. Di nuovo a te Gianni. Stavo dicendo che era tempo che non prendo l'aereo. No, non era una Ilica, esagerato. me lo ricordo ancora, vabbè, era il lontano 98, no, ottobre, novembre 98, Roma La Habana, 12 ore e mezzo di aereo. Roma La Habana 12 ore. Yes, all'andata, 10 al ritorno. E che giro hai fatto? A Bangkok cosa hai passato? No, no, no, Roma La Habana, diretto. Siamo passati sui Pirenei, tutto l'Atlantico, tutte cose. No, Vara, cosa hai detto? Non ho capito. La Habana, Cuba. Ho capito, Roma non Vara, ci sono tu 10 ore di volo, e che giro hai fatto? Roma, La Habana, Cuba, 12 ore all'andata e 10 al ritorno. Sì, avevo capito, ma mi sembrava tipo Brignano, quando ha fatto il viaggio di nozze, doveva andare Roma a Madrid e ha fatto non so che quanti scali per pagare quelli low cost. Da lì sono andati a Bruxelles, da Bruxelles sono andati a Parigi, poi sono ritornati su. Avevo capito, non va, vale. Perché cacchio di aereo sei andato a Remi? Sì, sì, me lo ricordo perché avevamo beccato in alta quota l'uragano Michi. Oh, lascia perdere. Addirittura. No, io aereo Elica ho volato non tantissimi anni fa, c'erano gli ATR-42, Carlo, se mai se li ricorda, i turbo Elica erano, non turbogetto come gli adessi, sembrava una, tipo un pullman come dimensione, 40 posti, 42 posti più l'equipaggio, e a Elica volava più basso degli altri come coso, tutta una vibrazione, però era un aereo simpatico, dai, avevo fatto proprio la tratta di Genova. Ti confermo, ma non ci sono più quelli, vabbè, quelli li hanno tolti, forse qualche compagnia, qualcosa ancora in giro per l'Italia, ma all'Italia ce li aveva, quelli lì li usava quando faceva poco carico, e spesso li trovavi da Alghero, anche per Roma e per Milano, e più di una volta li hanno messi in passato, ma tanti anni fa però. Io quando ero ragazzotto c'era anche Alghero Cagliari, te lo ricordi tu, molti anni che lavori di lì all'aeroporto, Carlo? No, negativo, io ci sono 17 anni all'aeroporto ad Alghero e quindi quello che c'è stato prima l'ho solo sentito, ne ho solo sentito parlare, ma non mi ricordo un po' com'era l'andato. So degli ATR eccetera, e ne ho visto anche io qualcuno più di una volta atterrare, però sono ormai almeno una decina d'anni che non ne vedo più. Sono aerei degli anni 70, fine anni 70, però erano abbastanza affidabili, aerei semplici, senza troppa elettronica, però le turbolenze le sentivano tante, infatti quando era anche vuoto, vroom, ci scendevano giù rispetto agli altri, sono tutti, diciamo, solo per brevi tragitti le utilizzavano soprattutto, non più di 300-400 km, tratte brave, soprattutto quando sono piccoli aeroporti che non hanno grandi piste, le utilizzavano per quel motivo lì. Quel viaggio più lungo che ho fatto è Alghero-Roma, Roma-Londra, Londra-Singapore, Singapore-Sydney. Siamo stati quasi 24 ore in aereo. Picchia, così te ne c'è della buglia. Io no, tragitti lunghi no. Due aerei ho preso, sì, ma non roba lunga. Massimo 3 ore di aereo, né di più. Però se te ne sono, io non ci riuscirei, infatti non lo so, io mi addormenterei, dovrei trovare una posizione sdraiata ad addormentarmi, perché come sono, io avevo fatto una volta la diurna da Genova, Porto Torres di Genova, 12 ore con le vecchie navi, mamma mia, non finiva più. E un'altra volta ho fatto 12 ore diretto di treno, Civitavecchia a Trento, non finiva più quel viaggio. Ho capito, no, io invece l'aereo che ho preso io era di quelli a due piani della British. E ho fatto tutta una tratta Londra-Singapore, poi lì abbiamo fatto scalo, 4 ore a Singapore dentro l'aeroporto, ma è un aeroporto enorme, ha più piani, pieno di negozi, e poi da Singapore a Sydney abbiamo preso la Qantas, che è la compagnia australiana, è partner diciamo della British, e hanno gli stessi aerei enormi, praticamente sono a due piani, capito? Penso che ci stiano più di 600 passeggeri dentro, e sono anche, hanno la prima classe dove ti puoi sdraiare, hanno i letti per le lunghe tratte. Se viaggi in seconda classe comunque è comodo lo stesso, perché puoi reclinare i sedili e c'è più spazio rispetto ai normali aerei, capito? Aereo, una bestia, le ho viste a Fiumicino, enorme, sono delle bestie di aerei, ma quelle fanno anche 16 ore consecutive di volo. Esatto, sì, sono sempre i Boeing, capito? Però sono viaggi lunghi. E ci sono stato un mese poi in Australia con tutta la famiglia. Quando siamo andati era praticamente a luglio e siamo rientrati metà luglio, dopo metà agosto, diciamo, un mesetto, siamo rimasti là, abbiamo girato in lungo e in largo, il continente lì è grande, tieni presente che è quasi due volte l'Europa, l'Australia, anche se la zona centrale è tutta desertica, capito? Però le distanze sono grandi, per spostarci da uno stato all'altro era preferibile prendere un aereo interno, poi perché se no perdevi troppo tempo, anche due giorni di treno, capito? Allora invece con l'aereo un paio d'ore e andavi da Sydney a Brisbane cambiando stato. Cavolo, la strada della sua è enorme, noi la vediamo piccola nella cartina, però è una cosa. E com'è così a lungo termine? C'avevi parenti? No, mia moglie da ragazza era stata lì per un anno come studentessa di scambio presso una famiglia australiana vicino a Brisbane, e quindi sono rimasti molto amici, loro sono venuti qua, capito, più volte a trovarci, e noi siamo andati a trovarli, e quando vai così lontano la cosa migliore è starci un mesetto, capito, per avere la possibilità di girare. Adesso tra un mese ci parte mia figlia, ci sarà un anno scolastico là. In Australia? Esatto, ancora non gli hanno dato la destinazione con i programmi di studi all'estero, capito? Lei fa, adesso è stata promossa, è in terzo a liceo, qua a Canopoleno, il quarto anno lo farà lì in Australia e poi quando rientra fa l'ultimo anno qua. Praticamente compirà 17 anni quando arriva là, quando rientra i 18 anni li farà qua. Cavolo, una bella esperienza. Ok, di nuovo a te Gianni. Ehi, mentre stavo parlando, ci siamo parlati sopra, dai, stavo dicendo, quei grossi aerei di cui state parlando, dei voli intercontinentali, sono, dovrebbero essere l'Airbus 380, giusto? Sì, sono quello lui, il più grande del mondo è l'Airbus per adesso, poi la Boeing ne farà un altro l'anno prossimo, per cui si stanno facendo le guerre. Il problema è che oltre un certo limite non possono andare, perché la larghezza non deve superare i 70 metri per le piste, sono pochi gli aeroporti che permettono di andare con quelle dimensioni, saranno nel mondo pochissimi, quelli più importanti, Dubai, Los Angeles, forse neanche Londra riesce a fare atterrare quegli aerei così grandi, perché sono al limite della larghezza della pista. Sì, esatto, ad Alghero comunque ce la fa ad atterrare, perché un Airbus è atterrato, sarà un 7 anni fa, però era un volo militare, portava quelli della Brigata Sassari, quindi erano carichi di, c'era tutto il battaglione, capito, carichi di ogni cosa, e praticamente le ali prendevano quasi tutta la pista. Se ci sono condizioni di vento e cose del genere, è troppo critica la situazione, forse l'hanno fatta per questioni appunto militari, parliamo in uso civile, sono pochissimi gli aeroporti che permettono di far funzionare una cosa, cioè devi fare una pista dedicata a quegli aerei lì, e deve essere anche lunga, almeno 3,5 km di pista. Esatto, se vedi l'aeroporto di Dubai, vedi tutti i Boeing parcheggiati, aerei piccoli non ne vedi. Ma quello di Dubai come dimensioni di aeroporto, parliamo di superficie aeroporto, non parliamo di aerostazione, è il più grande aeroporto del mondo, supera anche Los Angeles e Londra e Parigi, mentre l'aerostazione più grande del mondo, che è una cosa spaventosa, io sono riuscito a sapere che c'è. Sì, esatto, io ci sono stato negli Emirati a Dubai 5 anni fa, ho fatto Dubai a Abu Dhabi, però abbiamo fatto il volo diretto Roma a Dubai. Quando siamo atterrati, no, guardavo perché era giorno, non hanno aerei piccoli, l'aviazione generale, non quella civile, quella generale, turistica, sono tutti Boeing, capito? Adesso hanno costruito un altro aeroporto ancora più grande di quello principale, l'hanno fatto in occasione dell'Expo che c'è stato a Dubai, non so se è ancora in corso lì l'Expo, praticamente nel giro di 2 anni hanno realizzato un aeroporto ancora più grande di quello principale che c'era. Però l'aeroporto, allora, come superficie, parliamo con le piste, tutto quanto, il più grande del mondo è quello lì, di Dubai, però quello che c'è, l'aerostazione più grande, diciamo, per l'accoglimento dei passeggeri, lo sai qual è? Non vuole mai, se lo immagina nessuno. Non ho idea di quello. Madrid. Può essere, sì, può essere. Diciamo, in Spagna ci sono andato, ma sono atterrato non mai a Madrid, da altre parti, capito? Perché siamo andati in Andalusia, abbiamo fatto il tour, un'altra volta a Barcellona, ma da Madrid non ci sono mai atterrato, quindi non ho idea se possa essere più o meno grande l'aerostazione, ma ci credo, può essere vero quello che stai dicendo, capito? Allora, le superfici, me lo ricordo perché nel Guinness dei primati c'ha 2 milioni di metri quadri di superficie coperta, dedicata ai passeggeri e a tutta la logistica. Cosa vuol dire 2 milioni di metri quadri? È come fare 2 chilometri per 1 chilometro di larghezza, tutta la superficie coperta, è il più grande aerostazione del mondo. E subito dopo viene coso, quello di Dubai. Sì, allora, se inserito così nel Guinness sono dati, diciamo, già comprovati. Infatti, lo immagino. Bene, Mera, vai Gianni. Non è buccia di gioco, dai, come si dice qua. Non è l'aeroporto di Arbatax o di Tortolino. Peruso è il secondo più grande. Sì, anche Alghero. Adesso, dopo tanto, forse ci siamo, dovrebbero aprire a giorni, massimo a settimane, un paio di settimane, devono smobilitare tutto il cantiere, poi apriranno i nuovi arrivi, praticamente nella zona dove erano in passato, no? E da una parte c'erano gli arrivi e dall'altra le partenze, e quindi di conseguenza aumenteranno poi la superficie anche della zona partenze. Però Alghero, lo sai che c'ha un record? È pista più lunga. No, cosa pista più lunga? Parliamo di una cosa che molta gente non lo sa, il più grande display d'Italia, e quello dove ci sono tutte le viste, le immagini che girano, quello è il più grande d'Italia, e nessun aeroporto d'Italia ce n'è uno di superficie più grande di quello. Ho capito, la main hall che avevano fatto nuova lì dove c'è il bar, sì, ci sono quegli schermi giganti che hanno messo, contemporaneamente non so quanti pixel ci siano, c'è un sistema di raffreddamento dietro enorme. Sì, sì, è il più grande d'Italia, non c'è nessun aeroporto in Italia che ha la superficie di quelli lì, li hanno tutti affiancati, una cosa enorme. Alghero, la cosa bella di Alghero, quando avevano rinnovato tutto l'aeroporto, finito tutto, hanno ridotto tutti i trasporti, i viaggi, le destinazioni, eccetera, eccetera. Adesso finalmente lo stanno rivalutando. E si è bloccato tutto con la pandemia. Comunque, se vieni in questi giorni è sempre pieno, non abbiamo più tregua, praticamente mentre d'inverno e nei periodi prima, insomma, c'erano anche buchi di 2 ore, stavamo lì senza far niente, capito? Adesso proprio finisci un imbarco e ce n'è un altro, a volte ce ne sono 4 contemporanei dei voli, quindi ti ritrovi tutta la sala piena, capito, con una fila che arriva sino a fuori, capito? Però se dovessero aprire, come dicono in questi giorni, i nuovi arrivi che sono dotati di nastri consegnabagagli nuovi, grandi, più lunghi, insomma, hanno fatto i nuovi servizi igienici, le postazioni di controllo della dogana, della guardia di finanza, i box controllo voli extra Schengen della polizia, e quindi tutti i vecchi arrivi che sono attaccati alle partenze, quello diventerà tutto partenze, quindi dovremmo riuscire a avere 2 porte, quindi alla buonasera per quanto riguarda le partenze. Buonasera. Ok Luca. Ehi, buonasera. E giù mai stavi sovramodulando a coso, ti ho sentito sotto a Carlo, hai fatto detto che è? Sì, addirittura, forse c'è il volume basso, per quello, se me ne sono accorto, ho sovrato il volume. Ciao Carlo, ciao Roberto, chi c'è? C'è anche Gianni. Gianni, sono profeta o doppio rumore? No, profeta. Ciao Gianni, avanti. Ehi, buonasera, ciao Luca, ben entrato. Ehi, ciao Carlo, avanti. Ciao Luca, buonasera, scommetto sei rientrato adesso. No, sono arrivato alle 8:30 a casa, non c'era nessuno poco fa. Allora mi sono messo un po' su TikTok a cazzeggiare. Ma qualche aiutino c'hai Luca? Sì, sono agganciato. Già si vede, e poi c'è anche un bel forte di radio, pure troppo. Aspetta. No, faccio la 2, vai, bene, va. Perché ti ho sentito sotto a Carlo, qua Carlo arriva a 9.50 e tu eri sotto, sei 9.40, però sotto di radio ti sentivo. Sta andando bene la cosa qua, dai, va bene, dai. E vabbè, Carlo è molto più vicino a te. No, ripeto, il volume è basso, ma devo lago, insomma, come è successo a un baracchino? Poi ho visto, una cosa, c'era il volume basso, forse per coso, sai, io entro sempre in punta di piedi. Cappa, ok. E Carlo, cosa devono fare? Quindi fanno due passaggi per l'ingresso dei passeggeri? Penso che le chiudono tutte e due quelle porte, praticamente vogliono aprire un ingresso dove c'è, diciamo, quel negozio vicino alla parafarmacia, che c'è una parrucchiera. Dovrebbero aprire lì una porta e fare un ingresso unico da lì. Ma infatti è tutto disordinato, cioè c'è tanto, secondo me, di quello spazio sprecato in quell'aeroporto, cioè ti vedi delle aree enormi e poi vai a fare il coso dei passaggi nel nastro e c'hai mezzo la buttato, stretto stretto. Esatto, quello andrà almeno il doppio. Per adesso ci hanno allungato le rulliere, per cui quando tu passi i bagagli nell'apparecchiatura radiogena, prima c'era 2 metri di rulliera, adesso le hanno portate a 5 metri, quindi ci stanno anche 6-7 passeggeri in contemporanea, capito? Quindi riusciamo a fare anche 4-5 voli tutti insieme, invece prima con 4-5 voli facevi il tappo là. Non lo so, la vergogna era quello, infatti quando andavo a dire, ma poi ci metto 2 passeggeri per volta a fare, se qualcuno poi c'ha qualche valigia o qualcosa ingombrante, uno per volta. Se vai a Olbia, ti è capitato di andare a Olbia? Sì, tante volte, capito. Olbia erano già da prima organizzati meglio, perché l'aeroporto l'hanno fatto dopo, l'avevano già fatto un po' più ampio, quindi i controlli di sicurezza in ingresso sono lì a fianco ai banchi accettazione, c'è la salettina e hanno messo tutto il sistema Tendiflex, capito, a zig zag. Invece da noi hanno messo quelle ringhiere parallele e sono una porcheria, ma adesso dovrebbero togliere tutto. E infatti è una vergogna, cioè, vabbè, a Olbia c'è molto più traffico di Alghero e ogni 5 minuti sale un aereo, la vede ne atterra uno, una cosa spaventosa d'estate, è una cosa. Poi ci sono quei voli privati, jet privati, ogni 5 minuti c'è un aereo, uno dietro l'altro, considerando che la pista non è enorme come quella di Alghero, è proprio al limite, del perché arriva quasi sulla strada, evitano, hanno dovuto spostare la strada per fare allungare la pista. Esatto, l'hanno fatto un paio d'anni fa, mi sa, l'allungamento, mi sa che hanno spostato anche la torre di controllo. Sì, hanno modificato tutto, però è un bel aeroporto, è servito bene, è organizzato bene, a me piace l'aeroporto di Olbia. Esatto, su al primo piano c'era addirittura una facoltà universitaria, avevano aperta perché c'era un sacco di spazio, capito? Non mi ricordo cosa fosse, però mi ricordo di aver letto Università degli Studi di Sassari, non mi ricordo se era economia, qualche facoltà del genere, non me lo ricordo, o scienze politiche, qualcosa del genere, non so se ci sia ancora, ma di spazio ne avevano abbastanza, diciamo è anche ben collegato, i parcheggi sono sistemati meglio. Da noi c'è tutto un progetto anche della viabilità esterna che si era arenato prima della pandemia e adesso vediamo se riescono a portarlo a termine nel giro di qualche anno. Speriamo bene, perché stavano portando tutto a Cagliari e stavano penalizzando Sertiglia all'aeroporto di Alghero. Ok, di nuovo Luca e poi riprende Gianni. Luca non c'è, vai tu Gianni, anche Gianni è finito. Magari stanno facendo altro, si sono spostati un attimino. Ma gli elicotteri, quelli del soccorso 118, da voi sono Sertiglia o al militare? No, sono tutti al militare, anche quando arrivano i Canadair li ospitano lì negli hangar dell'aeroporto militare. Ah, non sono da voi? Negativo, sono nell'aeroporto militare. Ma la pista del militare è più lunga di quella di Sertiglia? Ora, la pista è unica, nel senso che la pista dell'aeroporto di Alghero è unica, è solo che c'è la torre che serve sia l'aeroporto militare che l'aeroporto civile, ma la pista è unica, hanno solo i raccordi loro, capito, che li fanno uscire in pista dai loro hangar alla pista. pista, ma è unica, non è che ci sono due piste, una per il militare e una per il civile, pista unica. Cioè i militari, l'aeroporto, l'aeronautica militare utilizza la pista dell'aeroporto civile. Esatto, esatto. Quando lo spazio aereo, diciamo, lo consente, decollano da lì. Scusa, dove li custodiscono gli aerei militari? Sono due hangar grandi. Poi c'era qualcuno che chiamava, avanti? Avanti, compagno. Madonna. Gianni, sei rientrato? Qui Virl. Chi è che è? Avanti. Ero al QTH Piccolino. Allora, tu vedevo da questi colpi di portale. Non lo sapevo di questa storia qua. C'hanno le, diciamo, le traversie, i passaggi per rientrare nella zona militare riservata. Esatto, esatto. Infatti, quando è qualche l'anno scorso che c'erano le frecce tricolori, siccome c'erano pochi voli, capito, causa pandemia, erano almeno 3 mesi ad Alghero i piloti, e tutti i giorni, quasi tutte le mattine, li vedevi fare tutti gli allenamenti, capito, le evoluzioni che fanno, le prove con il fumo, usano quello diciamo da allenamento, non quello colorato, capito? Non lo sapevo, e mi meraviglia anche questo fa, ma all'interno della